c'è voglia di Champions. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Se questa partita con questa intensità arrivasse a questo risultato del 0-0, ma la qualità, grande qualità dei nostri calciatori, di Leo, di Ney, di Luis, ha fatto che il risultato sia un altro. Però divertire ancora Suarez, steso, norma del vantaggio, Neymar tutto regolare, Neymar tutto regolare, tutto solo, Neymar, rete, rete anche lui, rete anche lui, dilaga il Barcellona. Luis Enrique aveva detto che era uno come gli altri, prova da cacciarlo via subito su due piedi, e invece andrà in finale di Champions League Luis Enrique e quello che era uguale agli altri, cioè Leo Messi. Giorgio De Luca, nostro autore del Nevonici in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ciao Pierluigi Pardo. Come va? Benissimo, Messi incantato e incantatore. Oggi sul web avrai dato un'occhiata, no? Da Siviglia dove ti trovi? In attesa di vedere poi qui in Spagna la meraviglia di Messi ovviamente è arrivata con ancora maggiore forza. Credo che sia crocifissione di Boateng. Sì, poverino. Sì, assolutamente. No, beh, insomma, diciamo che era nell'aria, insomma, io avevo pronosticato un 2-0 che mi ha saltato in questo giochino che facciamo fra giornalisti e simpatici cazzari colleghi, e mi ha saltato all'ultimo minuto, ma insomma la sostanza della partita è stata quella, e la vera notizia è stato il Bayern, che è riuscito a tenere praticamente fino a 15 dalla fine, e poi la differenza l'ha fatta lui. Però ecco, su quello che dicevi prima di Luis Enrique, io credo che alla fine, anche se sei il più grande di tutti, ci sono dei momenti nella vita in cui se qualcuno ti dice qualcosa e te lo dice per il tuo bene, può essere utile. E credo che questo sia successo. Cioè, io credo che Luis Enrique, con i suoi modi un po' asturiani, un po' bruschi, sicuramente con... li abbiamo visti anche a Roma, ovviamente. A Roma aveva Heinz e Gago e Kier, non aveva Messi e Neymar. Però comunque la mentalità l'abbiamo vista, no? Quella di un allenatore che non faceva sconti, non ha fatto sconti a nessuno. Ci fu la famosa sostituzione di Totti contro lo Slovan che fece molto discutere, e però alla fine sta avendo ragione lui, nel senso che probabilmente Messi, il fatto che sia arrivato un allenatore che in qualche modo l'abbia anche messo in discussione, gli ha fatto bene, ha contribuito a farlo crescere. Sì, ha contribuito a farlo crescere. Il discorso Messi comunque rimane un giocatore, ma vabbè, 77 gol in 97 partite, ma di cosa stiamo parlando? Rimane un marziano. Io continuo a pensare che, sai, si riaprono i confronti epocali. Io continuo a pensare che gli manchi la personalità per essere al livello di colui cui lo paragona a Arrigo Sacchi. La letterarietà, gli manca la letterarietà, cioè gli manca il questione di accento sulla A, però anche, secondo me è anche una questione di personalità. Arrigo Sacchi a Mediaset, sentiamo. Adesso è ritornato un giocatore unico, fantastico. Messi non si ferma con un giocatore, questo si devono scordare tutti gli amanti della marcatura uomo, perché non permettano più ai difensori quello che permettevano 20 anni fa o 30 anni fa. Adesso si deve marcare di sistema. Tu puoi marcarlo solo di sistema, cercando di raddoppiarlo il più possibile e cercando di fargli ricevere meno la palla avendola più tu. Ecco, era quello. Guarda, mi ricordavo in certe cose Maradona era uguale quando riceveva la palla e tu sapevi che poteva succedere di tutto, e anche con lui adesso sta, può succedere di qualsiasi tutto, qualsiasi cosa. Questa Arrigo Sacchi, intanto Leonardo ha twittato: è ufficiale, Messi più forte di Maradona. Questa mattina si riapre con fronte epocale. Il discorso di Sacchi è bellissimo e direi quasi filosofico proprio, sì, di approccio al calcio. È chiaro, è evidente che Sacchi adori la marcatura di sistema, no? Nel senso che è stato uno dei primissimi a considerarla come la più efficace. Però è vero anche che oggi sicuramente ai difensori non viene permesso di strappare la maglia come fece Gentile a Maradona. Sì. Sì, dell'82 è un sistema completamente diverso. Gli attaccanti sono sicuramente agevolati rispetto al passato, i palloni sono più elastici, più leggeri, gli autogol spesso vengono dati a quello che fa all'attaccante se la deviazione non è troppo decisiva, mentre una volta bastava un mezzo tocco sulla linea di porta ed era autorete. Certo. C'è tutta una serie di cose che secondo me aiutano lo spirito del gioco, la quantità di gol e gli attaccanti. Detto questo, il paragone fra Messi e Maradona ci può stare. L'elemento che dicevi tu, secondo me, è più appunto la letterarietà che altro. Parliamo, allora facciamo così, guarda Pier, sentiamo il traffico, subito dopo abbiamo un grande attaccante che è diventato presidente. Torniamo cosa subito. Lo diciamo. Tutti convocati. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta convocati. Allora Pierluigi Pardo, sei pronto per un grande attaccante che è diventato presidente? Assolutamente. Di che cosa? Presidente dello Juventus Legend. David Trezeguet, ciao David, grazie. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Presidente dello Juventus Legend è una grande idea secondo me della Juventus. Ci sarà Juventus Legend contro Boca Juniors Legend e per te sarà una specie di derby, no David? Perché tu sei... Hai l'altra sponda del cuore. Dici che cos'è l'UNESCO Cup, dici che cos'è questa partita. No, prima di tutto sono molto onorato dal fatto che la società mi abbia nominato presidente dei Legend. Sarà uno sviluppo dei coinvolgimento verso gli ex giocatori della Juventus, quelli che hanno fatto una storia molto importante in questa società. E il 18 giugno avremo questo incontro, come sapete, contro il Boca Juniors. E il fatto è l'unione nostra per parte del nostro presidente e società stessa con UNESCO per sviluppare una giusta causa che sarà per i bimbi soldato in Africa. Mali e Repubblica Centrafricana. Sì, Mali e Centro Africa. In più avremo la possibilità di fare questa partita davanti, e speriamo, un pubblico che ci dia la possibilità di riempire lo stadio e allo stesso tempo un ritrovo da ex giocatori di un'alta qualità anni 70, 80, 90 contro una squadra come il Boca Junior, che è una squadra anche da un livello molto molto interessante, e speriamo che ci sia il pienone per questa grandissima festa. Non ho tanti dubbi in proposito, mio caro, non ho tanti dubbi. Pierluigi Pardo, cosa vuoi chiedere a Trezeguet? Ti posso chiedere quanto ci credi alla finale? Che sensazione hai avuto? Io credo che al di là del discorso che ha aperto, perché conosciamo la forza anche simbolica, anche teatrale del Bernabeu, però insomma la Juve intanto abbia dimostrato che non è inferiore, che il gap con le grandissime d'Europa è stato ormai colmato. Su questo sono d'accordo con te. È vero che la Juve ha dimostrato in questa partita di essere una squadra importante che ha messo in difficoltà questa grandissima squadra del Real Madrid. Adesso sappiamo che sarà una partita molto diversa a Madrid, però comunque con le nostre armi avremo la possibilità di fare una grande partita. I ragazzi sono consapevoli di questa semifinale, sono consapevoli della unità, la qualità del gruppo, e io spero che la Juve riesce a fare una partita aperta, anche perché non penso che sia la soluzione quella da chiudersi, però in questo caso mister Allegri sa benissimo come gestire questo tipo di partite, e speriamo che la Juve possa andare in finale. È stata un'annata straordinaria e può diventarla ancora più bella chissà riesce ad andare in finale. Davide, in cosa assomiglia questa Juventus alla tua o alle tue, a quelle che hai attraversato? È vero che la Juve da questi quattro ultimi scudetti ha dimostrato che la squadra cresce, che la squadra sta diventando forte, che la squadra è molto unita e consapevole anche del gruppo e le qualità che ha. E, per quello adesso sta dimostrando di essere all'altezza di questo evento e per quello che riguarda penso che lo abbia dimostrato contro il Real Madrid perché ha fatto una partita molto bella e interessante, ha messo in difficoltà il Real Madrid, ha messo in difficoltà a livello anche loro individualmente perché il Real Madrid non è mai riuscito a fare la partita che voleva e questo è merito della Juventus. Adesso arriva un'altra storia, al Bernabeu, sappiamo benissimo che ci sarà anche da soffrire, però tutto sommato la squadra è pronta e carica per disputare questa partita. Saluto Riccardo Trevisani da Sky, ciao Riccardo. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te. Trezeguet e Trevisani, guarda, c'è quasi assonanza, però c'è una certa differenza, Riccardino, non t'offendere. Non t'offendere. Non t'offendere. Enrico, vuoi sapere qualcosa, David Trezeguet? Vuoi chiedere qualcosa a Trezeguet? Beh, diciamo che il vantaggio che possiamo dire di aver avuto è di averlo visto giocare. Adesso siamo nel giorno della consacrazione di Messi, ma io ho visto pochi centravanti. Perché belli da vedere come Trezeguet e utili alla squadra come Trezeguet. Quindi la domanda è: chi è il nuovo Trezeguet? Io direi Lewandowski, ma lui che dice? Lui che direbbe? Beh, bisogna dire che questo è un giocatore molto importante che ha dimostrato prima al Dortmund di essere un giocatore interessante. Adesso al Bayern ha dimostrato di essere in grado di poter giocare nella migliore squadra tedesca. Un giocatore importante anche per la loro squadra. Ieri purtroppo per lui e la sua squadra non ha avuto la fortuna giusta davanti a un Barcellona da questo calibro e anche individualmente avendo questo giocatore Messi che è straordinario, c'era poco da fare, però comunque è un giocatore molto interessante e molto importante per il Bayern. Davide, un'ultima cosa, Messi appunto, si riaprono dei paragoni epocali, Messi, Maradona, sono giochini interessanti. Io continuo a pensare che sia un giocatore per il quale non esistono tante parole, bisogna guardarlo giocare, però continuo anche a pensare, guardando i risultati con la nazionale argentina, che dal punto di vista della personalità non abbia quella che serve per essere accostato a Maradona o a Pelé o a Platini o a chi vuoi tu. È vero che in questo caso Messi ha dimostrato a livello squadra di essere il giocatore più importante del Barcellona e i suoi numeri lo stanno dimostrando e i suoi trofei vinti. È vero che con l'Argentina è andato più in difficoltà, però penso che per gli argentini la cosa più importante è che lui ci tiene e ha come obiettivo il voler provare a vincere sia in questo caso la Coppa America come i prossimi mondiali. È vero, come hai detto te, questi paragoni con Maradona. Maradona era un giocatore più dal popolo, più amato per gli argentini. Messi è cresciuto in un'altra storia, però comunque stiamo parlando da un ex grandissimo giocatore dell'attualità. Sapere che Messi è il miglior giocatore in attualità. Grazie David. Bocca al lupo. Ciao David Trezeguet. So che Pierluigi, sai che Trevisani è messiano. So che quello che ti ha detto Riccardo, mi ricordo quello che ti ha detto Guardiola, Partita in equilibrio, chi vince? Beh, partita in equilibrio vince chi ci ha messi. Ma io tra l'altro non so come dire, non credo mai nel singolo, credo sempre nella squadra. Dopo quella conversazione a Manchester con Guardiola, vidi Manchester City-Bayern Monaco, partita nella quale in 10 il Bayern Monaco dominò la partita, stando sotto 1-0, sotto di un uomo e senza avere alcun impegno perché era già qualificato aritmeticamente primo nel girone. E quindi pensai, forse ha voluto fare l'umile, ha detto una cosa che non è vera. E invece ieri sera ho capito che era via al 100%. No, ma è vero, è vero, è vero. A proposito del paragone con Maradona, secondo me la forza di Maradona è una forza appunto letteraria, nel senso che è quello che diceva Trezeguet prima, no? Il giocatore del popolo. In questo, con tutte le dovute ovviamente differenze, Tevez è un giocatore che si avvicina perché ha questo spirito di strada, di calcio di strada, di calcio dei poveri, di calcio che risorge in mezzo alle difficoltà. In questo il fatto che Maradona abbia scelto delle storie alternative, cioè abbia scelto di far diventare grandi delle squadre come il Siviglia, come il Barcellona, che comunque insomma non era il Real Madrid come storia in quegli anni, e ovviamente anche Napoli, l'ha messo sempre all'opposizione, l'ha messo sempre nella condizione di essere il contropotere rispetto all'ordine costituito, e in questo Maradona ha una forza che Messi non ha. Poi sulle grandi occasioni alla fine c'entra anche l'imponderabile. È vero che Messi non ha giocato una grande seconda parte di mondiale, è anche vero che se l'Argentina quella finale l'avesse vinta adesso faremmo altri discorsi, cioè Cristiano Ronaldo sbaglia il rigore in finale a Monaco, scusami, a Mosca contro il Chelsea, però poi sbaglia anche Terry e Ronaldo vince il pallone d'oro quell'anno. Se avesse perso quella finale l'avrebbero ricordato come un cagon che sbaglia il rigore. Ma poi ce ne sono mille di considerazioni che possiamo fare. Una di queste è che Messi chiuderà la carriera con 700-800 gol segnati. Questa cosa è imparagonabile per qualsiasi essere umano, anche per Maradona. Ne dico un'altra: la velocità con cui gioca Messi nel calcio di Maradona si sarebbe trovato bene. La velocità di Maradona nel calcio di oggi fa fatica. Io penso che onestamente il paragone non si possa mai fare, perché sono due epoche diverse. Poi la letteratura che si è fatta intorno a Maradona, le difficoltà, il fatto che se si fosse allenato quanto Messi forse sarebbe stato molto più forte di Messi, ha scelto di fare una vita diversa. Messi fa la vita d'atleta e Messi prende i benefici della vita d'atleta, cioè fa 800 gol, fascia qualsiasi record, fascia qualsiasi difesa, e tra un po' sfascia pure la mensola dei palloni d'oro, perché cadranno al peso inevitabile, inevitabile del raccolto finale. Questo è sicuro, questo è però, sicuro. Insomma, però io sono d'accordo con Pardo, cioè quello che più si avvicina dal punto di vista del carisma, della personalità, della capacità di essere trascinatore a Maradona non è Tevez di Messi, cioè ne faccio solo un discorso emotivo, 100%, quasi emotivo, 100%, sono d'accordo con Pierre, che mi inquieta moltissimo, però vedete che stando a Siviglia preso dalla Spagna un po' di jamon e un po' di buone idee, quindi va bene, sì. No, ragazzi, ma Guardiola fine corsa con il Bayern Monaco? Ci sono delle sliding doors, ci sono delle notti che cambiano un po' tutto, no? come il famoso Bayern Barcellona 4-0 con il povero Villanova in panchina per il Barça. Ci sono dei momenti di cambio generazionale, però la sensazione è che il calcio di oggi sia un calcio nel quale le grandi sono sempre grandi, diventano sempre più grandi, quindi al di là dell'episodio singolo dell'anno in cui il Bayern si presenta con tanti infortunati in una partita del genere, oppure il Barcellona si presenta a pezzi come fu in quella serata all'Allianz Arena, però poi alla fine queste risorgono. Il problema, la vera sfida è diventare sistema, e qui bisogna chiamare Beninazzo, cioè la vera battaglia della Juve è moltiplicare il fatturato per poter essere competitiva a quei livelli lì nei prossimi 10 anni. Certo. Poi è chiaro che ci sono le situazioni per cui il Barcellona venne umiliato in quella notte all'Allianz Arena e poi umiliato anche al ritorno. Stavolta è successo il contrario, il Barça va in finale, forse la vincerà anche. Però sono sempre quelle 3-4, capito? No, quindi ma certo, non si esce di lì. Io credo che anche in futuro non si potrà uscire di lì. Però, insomma, mi sembra che dopo quello che è successo l'anno scorso si riproponga una specie di dramma sportivo per Guardiola al Bayern di Monaco, e io credo che, considerando Rummenig, considerando ogni tanto le punzecchiature di Beckenbauer, l'establishment del Bayern Monaco che... tutto sommato questo spagnolo non ho mai visto di buon occhio, credo che possa bastare così per Guardiola al Bayern. È solo una sensazione, Riccardo, cosa ne pensi? Ma io credo che poi ci siano sempre i risultati a portare avanti o indietro i cicli. Allora, se è vero come è vero che dal mio punto di vista Mourinho ha fallito al Real Madrid, perché 3 anni di seguito ha fatto 3 semifinali, non è mai andato oltre, ha sempre fatto partite abbastanza negative quando contava, in campionato ha preso discrete botte dal Barcellona, tra cui la famosa manita, il famoso 5-0. Io considero molto negativa l'avventura di Mourinho a Real Madrid. Qui siamo davanti a un Bayern Monaco che vince per inerzia la, il campionato, la Bundesliga. La Bundesliga la vincerebbe onestamente, credo, con qualsiasi allenatore, e che in Champions League non è riuscito ad avere cambio di passo e ogni tanto ha perso pure con Borussia Dortmund a livello domestico nelle coppe nazionali. E che vuol dire che da quello che mi aspetto io da Guardiola, cioè 10 e lode, al Bayern Monaco non siamo a livello di 10 e lode, siamo sempre a un livello molto alto, ma non è 10 e lode. Ma secondo te ci sono le condizioni per proseguire questa avventura, o avranno voglia di qualcosa di diverso? Perché abbiamo sentito tutto il contrario di tutto nel corso dei mesi. Qualcosa di diverso e trovare qualcosa meglio di Guardiola mi sembra veramente molto molto complicato, fermo restando che Heinkes ha fatto meglio, ecco, di Guardiola, specialmente in Champions League. Però io penso che se noi andiamo ad analizzare quello che si potrà fare con il Bayern Monaco del futuro e come è stata presa il lavoro di Guardiola dal punto di vista del tiki-taka, dal punto di vista del lavoro anche nel settore giovanile, non credo che abbiano moltissima voglia, per quello che ho visto due volte sono andato a Monaco quest'anno, di liberarsi di Pep Guardiola. Non credo che ne abbiano molta voglia, e poi per prendere chi? Questo è un domandone. Ma, c'è il paradosso di un campionato poco allenante, per usare le parole di Capello, nel senso che appunto il Bayern ha una tale superiorità in Germania, un po' come Paris Saint-Germain in Francia, che sta facendo di tutto per complicarsi la vita e potrebbe anche non vincerlo, ma insomma ha fatto tanti errori, lo sappiamo, ha buttato via tanti punti, è evidente che insomma non c'è partita col Lione o con lo stesso Marsiglia o col Monaco dal punto di vista del budget, no? Quindi mentre vi devo dire che sto preparando la partita e c'è il canale satellitare, c'è il canale tematico del Siviglia che adesso che da circa 8 ore fa vedere highlights del Siviglia degli anni 80 e 90, una libidine, una roba. Cioè adesso c'è il derby col Betis vinto 3-1 della temporada 88-89. Ce lo racconti dopo la borsa. I vecchi Sport Sera, Domenica Sprint, stupendo. Vabbè, chiedo scusa per la digressione, però hai capito, no. Cioè, alla fine il Bayern, la stagione Guardiola se la gioca su quelle 3-4 partite di Champions League. Perché è chiaro, però è la seconda volta che gli dà buca, non lo so. Avrà sicuramente ragione Riccardo Trevisani, che trovi di meglio. Io credo che comunque di allenatori in giro ce ne saranno diversi nei prossimi mesi, magari anche quello che adesso sta sulla panchina del Real. Ricky, grazie, alla prossima. Grazie a voi, ciao, ciao Riccardo. Ciao. Borsa, poi torniamo. 800240024 per intervenire. Ho qualche dubbio. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Moriti. Elli rischia e la butta in porta, clamoroso autogol del portiere del Torino Padelli dopo 2:40 dall'inizio. L'Empoli è in vantaggio. Luigi Pardo, tu starei anche guardando Sport Sera in salsa spagnola al canale tematico. Carice Siviglia 0-0, temporada 88-89. Mai visto cosa ha fatto Padelli ieri? Sì. Ma attenzione, qua il Siviglia la palla al perfino 0-0, quindi infatti ha parato il portiere calcio, sì. Allora, ti invito a ricordartene qualcuno di più scellerato. Noi ne abbiamo pescato qualcun altro di autogol. Invito naturalmente anche gli ascoltatori, se ve ne ricordate qualcuno di diverso, di più grosso di questo, di più enorme di quanto ha fatto Padelli ieri. 800240024. E palla verso Avelar, fa Burdisse a cercare di fermarlo, il cross è Die. Vedi che autogol Goicoechea. Mamma mia, Goicoechea che ha fatto! Sul cross di Avelar, Goicoechea è uscita, ha preso il pallone e in caduta se l'è lasciato scappare e la palla è entrata dentro. Mamma mia! Cioè, questa penso che qui oggi è la fine per Goicoechea. Te lo ricordi questo? Sì, no, e non solo per Goicoechea, anche per Zeman. No, ma Parma-Milan, anche se poi c'è stato l'infortunio di Diego Lopez, però insomma abbastanza clamoroso, lo tocca di Sciglio la seconda giornata a Parma. Chiaramente riguardandomi per preparare Siviglia-Fiorentina, ho visto quello che ha combinato, anche se tecnicamente non sono stati due autogol, Beto, portiere del Siviglia, che poi è il titolare ma ha un problema alla spalla ed è ufficiale che non gioca perché non è stato convocato, che si è fatto due gol da soli contro lo Zenit, gol di Rondone e Hulk, praticamente con due tiri da 40 metri innocui, andate su YouTube, cercateli, che fanno abbastanza ridere. E poi, beh, recentemente insomma il Napoli-Samp, Viviano non ha fatto una cosa eccezionale, però quella di Padelli di ieri secondo me, secondo me è veramente le batte tutte, cioè io uno che si tira in porta un pallone innocuo, inoffensivo, da solo, io non, sinceramente non ho mai visto a nessun livello, neanche quando giochi da bambino ti incazzi e vuoi fare apposta, tiri nella tua porta. Chi va in Europa League? Chi va in Europa League? Chi ci vuole andare? Perché mi sembra, no no, a parte le battute, però voglio dire, l'Europa League ha recuperato, dai, pienamente una sua dignità, questa stagione è il miglior manifesto, però il vero paradosso è che le squadre che sono lì davanti sembra veramente che non trovino, abbiano l'ansia della prestazione e fatichino davvero a centrarla. Insomma, com'è, la com'è la Sora Camilla? Cosa? Come si dice a Roma? A Sora Camilla? Tutti la vonno, nessuno la piglia. Bravo, ammazza, tutti la vonno addirittura. Un centro scatenato. Parliamo con gli ascoltatori, Pierluigi. Andrea, mi pare che invece la Champions League abbia una Materazzi contro l'Empoli, passaggio dal centrocampo, mi segnalano dalla regia, anche quello non era male. Mi sembra che la Champions League abbia una favorita chiara, è quella che ieri ha battuto 3-0 il Bayern di Monaco. Poi speriamo che a Berlino, insomma, quantomeno se la giochi la nostra di squadra. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Niente, volevo tornare sul paragone ancora Messi-Maradona. Io ho vissuto Maradona, ho 47 anni, e devo dire che adesso i giocatori sono molto più protetti rispetto a una volta. Anche le ammonizioni di ieri sera mi sembravano un po' troppo eccessive. Io poco tempo fa ho visto Milan-Napoli, ancora dei tempi di Maradona, cioè Napoli recuperava palla in difesa, palla subito a Maradona, arrivava, non so, Baresi, pam! Dopo due secondi Maradona scendeva, neanche ammonito niente. Sì, sì, ma sui paragoni, Maradona... No, ma sui paragoni epocali si fa sempre fatica, cioè, no, io sono contrario, è solo un gioco. Però come regolamento ha ragione l'ascoltatore. Certamente ha ragione. Gli attaccanti oggi sono molto più aiutati, i difensori sono molto più in difficoltà. Una volta ai difensori veniva permesso di tutto, di più. Si gioca anche in modo molto più fisico dal punto di vista atletico. Molto più fisico e anche molto più violento. Oggi, insomma, un intervento duro è minimo giallo, e spesso è anche rosso. Ma giustamente, cioè, giustamente non lo so se giustamente, sicuramente c'è un elemento di vi ricordate l'intervento di Goicoechea su Maradona, sì, no? L'infortunio lunghissimo. Sì. C'è da un lato un discorso di preservare ovviamente l'integrità fisica dei calciatori, e dall'altra c'è il discorso di preservare lo spettacolo. Quindi oggi tutte le modifiche che sono state fatte di regolamento, intervento da dietro, intervento sulla chiara occasione da gol, vanno tutte nella direzione di favorire lo spettacolo e favorire i gol. I palloni, insomma, il materiale è cambiato tanto, Sì, sì, quello è vero. Quei portieri di qualche anno fa, il pallone di cuoio era molto più difficile da gestire, da calciare, era molto più pesante, era molto più difficile variare le traiettorie. Questo è tutto vero, certamente è per questo che dico i paragoni epocali sono giusto un giochino che possiamo fare, ma non hanno un grande fondamento logico, perché è come paragonare una moto ad una bicicletta. Entrambe sono meravigliose, ma sono una cosa diversa. Il calcio si giocava anche solo negli anni 90 è la bicicletta, naturalmente. C'è chi scrive: sapete che il 70% delle autoreti, non so se sia vero, 70% delle autoreti viene fatto nelle ultime 4 giornate di campionato, a pensare male, a volte. Non so se sia una statistica reale. Io so per certo che il Siviglia ha fatto 1-1 in casa dell'Espagnol nell'88-89. Questo è finita? Gara finita? Finita, sì, cioè finita. Qui dice il punteggio e poi c'è tutta la sintesi che dura 3-4 minuti, quindi il punteggio lo sai subito. Però ecco, al Sarriá il Siviglia fa 1-1, ma sta dominando, sta dominando. Quindi posso serenamente scommettere su quella partita. Sì. Non so se te l'accettano, però. Vediamo, io ci provo. Allora, io invece ho una teoria che voglio condividere con voi su Benitez. Allora, Benitez, tanto così parliamo anche di Europa League. Questa mattina il suo procuratore è stato a Napoli, guarda caso anche procuratore di Caleon, di Albiol, di Reina, che rivogliono a Napoli. E insomma, è stato lì e ha detto: ma probabilmente, insomma, c'è ottimismo, serve ancora 4-5 giorni, poi magari chiudiamo l'affare. Io non ci credo. Sono 100% non so se è impegnato qua, voglio farlo benissimo, abbiamo vinto due titoli, voglio vincere ancora di più, ma il discorso con il presidente sarà tra qualche mese, parliamo e vediamo dove siamo. Guardo mare, guardo fronte. Ho detto che con Aurelio ho un grandissimo buon rapporto, tre mesi parliamo del futuro, chiaramente lui lo sa, a lui le piacerebbe andare avanti tutti insieme per la stessa strada, parliamo tre mesi e vediamo dove siamo. Sono sempre innamorato. Ho detto, so che tu hai fatto la tua domanda e l'hai girato molto bene, ma ho detto che parliamo a aprile perché abbiamo ancora tempo e dobbiamo concentrarci in quello che possiamo fare, che è vincere la prossima partita. Sì, io credo che il presidente sa che cosa penso io e dopo il mio procuratore arriva, deve parlare con lui e fare il suo lavoro. Però come è la prima domanda e sicuro che qualcuno vuole fare un'altra in questo senso, devo dire, come ho detto all'inizio, questa è un'opportunità dopo 26 anni storica per il Napoli, per la città. Il club alla fine è patrimonio dei tifosi, è patrimonio della città, al di là del presidente, al di là dell'allenatore, tutti devono essere orgogliosi di vedere la sua squadra a questo livello e credo che dobbiamo concentrarsi su di questo. Io mi concentro sul calcio e dopo questo intervento parlo solo di calcio. Tu merici stessi nascere magia. Subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Saluto Gianluca Monti, edito della Gazzetta dello Sport. Ciao Gianluca. Buon pomeriggio a voi. Ciao. Ciao. Ciao Pierluigi, io ho una teoria. E se fosse tutta una messa in scena questa su Benitez? E se fosse tutto un colossal di De Laurentiis, con ovviamente il consenso stesso Benitez, per tenere buono l'ambiente e la squadra in un momento così delicato? Ci può stare. Come direbbe lui. Anzi, ci può stare. Ci può stare. Però il club è un momento show bellissimo, a parte le battute. E qui in Spagna, fra l'altro, Marca dice che va via, cioè dal punto di vista degli spagnoli sui giornali si parla di un addio praticamente certo, con le solite opzioni aperte che sono Liverpool, Paris Saint Germain, Manchester City e un eventuale possibile ribaltone al Real se le cose dovessero andare in un certo modo da qui fino alla fine della stagione. E io credo che De Laurentiis comunque andrà a finire, questa mossa l'abbia calcolata molto bene, nel senso che in questo momento sarebbe stato assurdo esporre all'idea di una possibile partenza dell'allenatore il club, l'ambiente, i giocatori, per cui siccome è il momento più importante della stagione è molto positivo che ci sia invece la possibilità che Benitez possa rimanere e che questo tema sia tenuto sotto traccia di fronte all'importanza invece delle sfide che il Napoli ha in questo momento. E in generale io credo non sia facile sostituire Benitez con non lo è di certo. È un campionato che secondo me è sotto al par, nel senso che il Napoli per la forza che ha secondo me doveva stare però adesso c'è l'Europa League in ballo, c'è la Coppa Italia. Gianluca, cosa ne pensi tu invece? Oddio, se è una messa in scena e noi non lo abbiamo capito, è venuta bene. Sarebbe abbastanza grave da parte nostra, nel senso che già siamo andati fuori strada fino a 5-6 giorni fa, perché onestamente le notizie convergevano tutte verso un addio di Benitez. un addio che prescindeva dal discorso Champions, nel senso della qualificazione che il Napoli deve ancora raggiungere o attraverso l'Europa League o attraverso il campionato, e prescindeva comunque dal fatto che Benitez intendesse o meno portare avanti la sua avventura napoletana, perché c'erano anche altri tipi di situazioni che lo condizionavano, in primis quella familiare. Adesso d'improvviso ci troviamo di fronte ad un quadro totalmente opposto, perché anche i problemi di natura familiare vengono messi in secondo piano, perché anche il discorso Champions o Europa League il prossimo anno sembra non condizionante né per Benitez né tantomeno, e questo mi sorprende parimenti, per De Laurentiis. Quindi siamo di fronte a uno scenario nuovo, uno scenario in cui ieri De Laurentiis e Kion si sono parlati, in cui, questo posso affermarlo abbastanza con certezza, De Laurentiis ha fatto le sue proposte sia economiche sia raccontando quelli che sono i progetti della società per quanto concerne il centro sportivo, il vivaio e quant'altro, informando Benitez della sua disponibilità anche a venire incontro ad alcune esigenze di carattere familiare, e Kion si è riservato di riformulare queste proposte a Benitez, dando comunque un'ampia disponibilità non solo ad ascoltare ma anche appunto a riportare all'allenatore, magari non in tempi strettissimi ma a stretto giro qualcosa sapremo. Sì, sembra strano appunto che tutto questo discorso possa prescindere dalla Champions League o non Champions League, cioè, perché fa tutta la differenza del mondo, onestamente. Assolutamente, però rispetto a qualche giorno fa le indicazioni, perché poi dico sempre che noi facciamo alla fine i giornalisti, bene o male, quindi cerchiamo di riportare quelle che sono le nostre informazioni, ad oggi sono queste, e ripeto, sono anche diametralmente opposte a quelle di 5 giorni fa, quindi può essere che eravamo fuori strada allora e che siamo su quella giusta adesso, può essere che eravamo sulla strada giusta allora e adesso ci hanno depistato. Raccontiamo quello che sappiamo. Sì, sicuro. Grazie Gianluca, buon lavoro. Complimenti per il risultato di ieri, Per? Ha postato una foto con un risotto molto interessante. Ti segnalo che Siviglia sta vincendo 2-1, cioè già so che finisce 2-1 a Murcia. E invece prima non te l'ho detto, perché ho voluto verificare, ma c'era una clamorosa parata di Incono, portiere dell'Espagnol, su Ramon, attaccante del Siviglia, stagione 88-89. Incono aveva già 56 anni, stagione 88-89, no? Sì, ha fatto una decina d'anni all'Espagnolo. Senti, amico mio, per chiudere, che succede stasera? Lì dove sei tu a Siviglia per la partita che racconterai e in quella che vedrà in campo Benitez. Guarda, sono tutti molto ottimisti quelli del Siviglia, perché il Siviglia ha una specie di istinto da killer nelle coppe. È la sua quarta semifinale europea e nelle altre tre occasioni ha sempre vinto il trofeo. È la squadra detentrice della Coppa UEFA. In realtà poi, secondo me, la sfida in campo è equilibrata, è la quinta del campionato italiano contro la quinta del campionato spagnolo, mi sono rotto le scatole dei complessi di inferiorità, quindi non credo ci sia una distanza tecnica, la paura può essere nella gestione di queste occasioni, è un test di maturità importantissimo per la Fiorentina, che ultimamente in campionato spesso si è addormentata, però poi per esempio contro la Dinamo Kiev, che è in testa al campionato ucraino e che aveva eliminato altre squadre buone, non gli ha fatto vedere palla, quindi io spero di trovare quella Fiorentina lì. Per quanto riguarda il Napoli, dipende dal Napoli, nel senso che con tutto il rispetto per il Dnipro, che è secondo in quel campionato ucraino, meno 6 della Dinamo Kiev, il Napoli è più forte, solo che il Napoli lo sappiamo bene, è una squadra che quando scende in campo con lo spirito giusto è quasi irresistibile, quando invece si addormenta è da prendere a schiaffi. Ha le sue lune, quindi, servirà, insomma, grande pazienza, secondo me. Il Napoli mi sembra favorito, Siviglia-Fiorentina mi sembra equilibrata, però insomma dipende. Siamo tornati a una fase in cui dipende da noi. Vai che ce la giochiamo. Sì, dipende da noi, e questo è il grande risultato. Ciao Pier, ci sentiamo domani con i risultati in tasca. Ciao. Ger. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. C'è la belva delle favole e c'è la belva della realtà. Dobbiamo imparare a farci i conti con questa belva, a misurarla e a controllarla. Insieme a voi, facendovi parlare, facendovi ascoltare, facendovi anche arrabbiare, provocandovi. I conti della belva con Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino, tutti i sabati dalle 10 alle 12 su Radio 24, i conti della belva. Sono con Enrico Ruggeri. Questa settimana ha il Falco e il Gabbiano 5 incredibili storie come nessuno ve le ha mai raccontate. Rasputin, il monaco maledetto. Tony Iommi, il padre del heavy metal, una storia scelta da voi. Traudl Junge, la segretaria di Hitler. Brian Clough, la leggendaria storia del più grande allenatore di calcio inglese. E il poeta maledetto Charles Bukowski. Vi aspetto su Radio 24 alle 15.30 a Il Falco e il Gabbiano. Che dire, arrieccici. Convocati. Sono noi, sono noi. Marco Verinazzo, ce l'abbiamo noi da Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Caso di fare il punto adesso sul Milan, poi parliamo della Juventus che sta diventando milionaria della coperta d'oro, poi c'è un campionato spagnolo in sciopero per questioni di diritti televisivi. Ci sono Francesco da provincia di Padova e Stefano da Genova, li chiamo subito e poi parliamo di Milan tanto per cominciare. Francesco. Buongiorno Genta. Buongiorno Dica. Allora, ho trovato un autogol più ridicolo di quello di Padelli. Non ci credo. Tomislav Piplica, sì. Dell'Energy Cottbus. Sì. Partita Borussia Mönchengladbach Energy Cottbus del sì. 2002, Serie sì. B tedesca. Sì. La palla arriva al campanile, sì. Sulla linea di porta. Sì. Il Piplica si posiziona per prenderla. La palla gli sbatte in testa, lui cade all'indietro e la palla entra. E sono finiti tutti in prigione. Esattamente, lui è diventato un idolo. È arrivata la polizia. E andatevelo a vedere, scrivete su YouTube Piplica Eigentor. Sì. Ed è una cosa eccezionale. Scriviamolo su Twitter, twittiamolo. Io sinceramente andremo a vederci questo, ma Padelli l'hai visto ieri. Sì, devo dire che è abbastanza imbarazzante, insomma. Te ne ricordi uno peggio? Io no. No, alcuni scivoloni di portieri me li ricordo, insomma, ma questo è stato. No, entra nella galleria delle mostruosità, no, ma calcistiche. Ma che poi, onestamente, adesso tutti dicono: il Torino non vuole andare in Europa League, o ci sono altre cose. Cioè, se vuoi farla la frittata, non la fai così grossa. Dai, c'è modo e modo, no? Un minimo di decoro anche siamo nel fare cinici. Le frittate, siamo il paese di Masterchef. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie. A lei. Allora, dunque, parto da una comparazione di campioni di cui parlavate prima. È una cosa che noto è che un tempo la squadra che aveva i grandi campioni faceva fatica a farli correre. Oggi invece le squadre, queste 3-4 squadre che spendono centinaia di milioni, hanno campioni in tutti i ruoli, i campioni li fanno correre, i campioni si sono adeguati molto e trovano naturale correre e correre molto. Allora io, guardando le partite degli ultimi anni, sono rimasto veramente colpito dal grado di perfezione che è stato raggiunto. Oltretutto il calcio continua a cambiare ogni 5-6 anni e questo è incredibile perché si pensa che si sia fatto tutto. C'era il tiki-taka è sì. stato superato. Oggi le squadre non costruiscono più, mi sembra, partendo dalla difesa ci rinunciano, a volte non sanno neanche che farci col pallone. Vedevo la semifinale tra Real Madrid e Juventus, preferiscono aggredire l'avversario in uscita. Beh, dipende, sì, comunque si trasforma in una grandissima forza agonistica e alla fine, a parte che la bellezza del gioco è fuori discussione e i colpi dei campioni, ma alla fine diventa veramente una battaglia fisica. Sì, questo una battaglia... cambiano, ha ragione lei. Cambia, ecco. ci sono varie tendenze, vari momenti, varie mode, cambia tutto molto rapidamente: collezione autunno, inverno, primavera, estate. Però c'è un denominatore comune che è una grande preparazione fisica, perché adesso se non corri non sta in campo, cioè nemmeno Maradona sì, starebbe in campo. Diciamo che è un calcio che tende ad essere sempre più in stile NBA, no? Anche sì. sul campo, dove c'è questo elemento agonistico, però mixato alla grande tecnica di alcuni giocatori. Solo quelle squadre che riescono anche per i fatturati ad avere campioni capaci di avere il colpo in più, ma allo stesso tempo di correre come gregari, riescono a fare il salto di qualità. Se non corri, cioè se non hai quel livello così elevato di condizione, nel calcio oggi non giochi. No, oggi siamo divertiti con il giochino Messi Maradona, ma tu sai che io sono maradoniano, quindi sai, è una questione di personalità. Sì, Marco. Sì, cioè, sì, sì, io vorrei che Messi ecco, per superare Maradona accettasse 2 anni di contratto a Napoli, esatto, pagati dal Barcellona. Messo nel Napoli vincerebbe lo scudetto. Questo il Napoli vincerebbe. Questa è la grande sfida, è una sfida che lanciamo da qui. Lanciamo da qui. Messi, vieni, dimostra che sei grande, quando vai a Napoli e poi vediamo. Lui ha due strade per equipararsi a Diego: vincere il mondiale con l'Argentina o lo scudetto con il Napoli. Fa molto prima, secondo me, a vincere lo scudetto con il Napoli. Sì. I mondiali ci sono ogni 4 anni, poi sai, insomma, può capitare di tutto. Ha più certezze, pagato ovviamente dal Barcellona, perché ovviamente quantomeno i 2/3, no? Sì, 2/3, ma penso che De Laurentiis 3-4 milioni li possa anche tirar fuori nel caso specifico. Senti, dimmi cosa fa, dove va il Milan. Beh, per il momento Berlusconi, abbiamo letto, in tour elettorale, ripreso impegni politici, quindi diciamo che questa mossa che aveva destato così tanto scalpore con Mr. B assume anche un certo significato, no? In vista delle elezioni, quantomeno nel temporeggiare. Mr. B a sua volta è in tour fra Cina e Abu Dhabi per cercare di capire come riassemblare l'offerta. Anche se il dubbio essenziale che mi resta è come una offerta, come un contratto, come un accordo sul quale si è lavorato per mesi possa essere radicalmente mutato in 20 minuti di chiacchierata in una suite di un hotel. Per cui o Berlusconi, alla luce anche del comunicato Fininvest, ha liquidato Mr. B e poteva scegliere altri metodi, oppure di fatto c'è già un accordo che prevede, diciamo, sempre comunque l'acquisto della maggioranza da parte della cordata di Mr. B e di chi gli sta dietro, ed è soltanto rimandato, diciamo, il timing di questo appuntamento. Che tu non credi all'altra possibilità. Io sull'altra cinese. Possibilità cinese ho avuto sempre un certo scetticismo di fondo, legato al fatto che due cordate cinesi concorrenti non operano per scelta governativa. L'unica breccia che ho sempre visto come quella decisiva, che potrebbe aprire in effetti le porte dell'Oriente molto più velocemente al Milan, è quella legata a Wanda. Perché si lega in maniera sinergica, industriale, al discorso dello stadio, c'è Info, c'è Galea, insomma ci sono tutta una serie di elementi che la favorirebbero. Su Lee e gli altri, i quali altri poi sono una serie di grandi conglomerati che hanno fatturati enormi, giganteschi, che potrebbero tranquillamente acquistare da soli il Milan e mezza Serie A, una parte ha smentito, l'altra parte non ha mai commentato, e mi chiedo perché siano costretti a mettersi insieme penso per esempio ad Alibaba, no? A portare Alibaba, sì. Che è stato quotato a Wall Street ed ha miliardi e miliardi di euro in cassa. Non vedo perché debba, come dire, stare lì a fare la colletta con altri gruppi, certo, per prendersi il Milan. E meno ancora credo, diciamo, al di là del rispetto per il lavoro dei colleghi, a un emissario diretto del governo di Pechino che, come dire, si presenti, suoni a casa Berlusconi e dica: siamo qui, vogliamo il Milan, insomma, ci sono ci può altre, aprire altre per favore vie, ci sono altre vie. No, quello che mi è sembrato c'è qualcosa di strano comunque in questa vicenda, sì. anche perché visto come si erano messe le cose, non è che Mr. B ci abbia fatto una gran figura, cioè è stato liquidato in 448 sulla porta di un albergo. Ma il problema sai che lui poi ha fatto un comunicato da vincente, cioè da che è riuscito ad avviare una trattativa in esclusiva e che in qualche modo faceva una sorta di ritirata strategica, nel senso che doveva semplicemente rimodulare l'offerta. Ma di fatto avendo trovato l'accordo con Berlusconi. Mentre era in volo, mentre partiva da Malpensa, alla fine Investop ha fatto un comunicato in cui ha definito questa stessa situazione come una proposta di collaborazione. Quindi capisci che sono due mondi completamente diversi. La cosa che mi ha meravigliato e che rende tutto questo ancora più confuso, lo so che dovremmo offrire certezze ai nostri ascoltatori, ma facciamo davvero anche noi fatica a seguire in maniera coerente questa trattativa, è che questo comunicato sia stato fatto dalla Fininvest, che ha sempre spinto per la cessione del Milan. Certo. Quindi questo significa che dietro, nell'ambito diciamo delle strutture familiari e industriali di Fininvest Media, se c'è in questo momento una tale confusione o comunque una tale situazione di interessi divergenti che rende difficile allo stesso Berlusconi prendere qualsiasi decisione. Credo che Berlusconi per la prima volta abbia paura che appunto qualsiasi decisione prenda alla fine tenda a scontentare qualcuno che non vuole scontentare. Certo, però o vendi e prendi un sacco di soldi perché l'offerta era di quelle che non puoi rifiutare, oppure vai avanti e giochi a raddoppio. E qui si tratta di mettere dei soldi, si tratta anche di mettere tanti soldi. Anche perché appunto immaginiamo questa situazione: Berlusconi rimane. Non vende, rimane. Allora, tra 2014 e 2015 ha già la Fininvest dovuto staccare due assegni, 120 milioni in tutto, per far andare avanti il club. L'anno prossimo non si va in Champions. Se arriva l'ok per lo stadio, c'è da finanziare il progetto, parliamo di almeno 300 milioni, e io non credo che i tifosi del Milan sarebbero contenti con un'altra campagna acquisti al ribasso senza andare in Champions, anche perché a quel punto avrebbero gioco facile nel contestare a Berlusconi di non aver ceduto il Milan di fronte a un'offerta così importante, insomma, e andarla a spiegare in termini finanziari alla curva quello che può essere accaduto la vedo dura anche per un uomo di comunicazione come Berlusconi. Allora, invece, chi sta per essere inondato da una pioggia d'oro, che speriamo sia il più la più cospicua possibile, è la Juventus. Ieri Marotta ha parlato di Allegri e del rinnovo del contratto e prolungamento, perché Allegri non è scadenza, lo sarà l'anno prossimo, che è solo una formalità, e poi ha detto no, Pogba, ma magari ce lo teniamo pure. Io sono contrario al fatto di tenere un allenatore in scadenza di contratto, perché non ci dà serenità e forse anche una mancanza di fiducia. Noi abbiamo fiducia, vogliamo inculcare serenità, quindi paradossalmente il prolungamento del contratto risulta un atto formale. Ci incontreremo quando avremo terminati questi impegni importanti. Uno l'abbiamo già concluso, che è lo scudetto, ne abbiamo due, che sono appunto, come ho detto prima, la Coppa Italia, e questa che poteva essere un'avventura, ma che oggi onestamente la guardiamo con molta concretezza, che è la partecipazione alla Champions League. Dopodiché ci troveremo con Allegri, con chiaramente con il presidente Andrea Agnelli, e parleremo assolutamente del contratto. L'obiettivo è quello di non indebolire la squadra, ma rafforzarla con le opportunità di mercato, nella logica di un mix tra equilibrio di bilancio e risultati e obiettivi da conseguire. Pogba è uno di questi elementi e quindi da parte nostra non c'è l'intenzione di venderlo. Questa era Marotta. Marco Bellinazzo, cioè Pardo, tutti i giorni dice che la forza della Juventus anche a livello europeo deve diventare strutturale. Beh, alla fortuna di la Juventus di aver costruito un assetto in Italia che permette al club di avere introiti strutturali dalla Champions, perché immaginiamo da qui uno scenario quinquennale, la Juve almeno 4 volte su 5 ci andrà in Champions, se non dalla porta principale su 5, ecco. Quindi quei ricavi è l'unica squadra italiana che può considerarli strutturali. Detto questo, tra l'altro, la Juve quest'anno potrebbe stabilire il record europeo di ricavi relativi alla Champions. Magari non la vincerà, però già in cassa ha circa 25 milioni legati ai risultati ottenuti in questo percorso. Un'altra cinquantina arriveranno dal market pool e siamo già a 75, e poi c'è il bonus finale. La finalista perdente ottiene 6 milioni e mezzo, la vincente 10 milioni e mezzo più un'altra piccola percentuale di market pool. Si potrebbe arrivare nel migliore dei casi, e lo speriamo per i tifosi juventini, un centinaio, no, ma 90 milioni che nessuna squadra ha mai incassato in Europa, quindi un piccolo record per una squadra che negli anni prossimi si prepara a incamerare ancora più introiti, per esempio dal punto di vista commerciale con il contratto con Adidas, per esempio col fatto che andando in Champions potrà beneficiare dell'incremento del market pool, perché certo, ci sono più soldi messi da Mediaset per acquistare i diritti televisivi, e quindi è chiaro che oggi la Juve si trova su un livello in cui ha 220-230 milioni di ricavi operativi senza la Champions, che potrebbero arrivare con questi incrementi commerciali, in parte legati allo stadio, 250, più 50 o qualcosa in più medi dalla Champions, si arriva a quella quota di 320 milioni che era stata indicata da Presidente Agnelli come minima per poter competere con i grandi con club, i grandi club e a quel punto potremmo parlare davvero di una Juventus che ogni anno potrebbe tranquillamente aspirare a un quarto di finale, semifinale Champions, con tutto quello poi quindi che strutturalmente non può, potrebbe essere a livello delle regine che abitualmente si siedono a quella, diciamo, quel tavolo un gradino sotto rispetto, sì, a club che hanno fatturati strutturali intorno ai 500 milioni, parliamo insomma delle quattro regine, sì, Real Madrid, Barcellona, Bayern e Manchester United, sì, ma subito sotto insieme al Chelsea si può collocare la Juventus, e a quel punto insomma iniziamo a parlare di un altro tipo, certo, di un altro tipo di sport. Esattamente. Quasi. Raffaele Treviso, buongiorno. Buongiorno. Io volevo parlare praticamente di Benitez, ma guardi, io sono napoletano, ma penso che Benitez lo sia molto più di me, in quanto praticamente abbia imparato moltissimo a fare la cosiddetta sceneggiata, nel senso che a me sembra veramente che sia una sceneggiata questa, perché già si parlava di un suo addio, già praticamente Aurelio De Laurentiis aveva contattato Spalletti, aveva contattato altri allenatori, esattamente, e poi di colpo questo grande amore per qualche partita giocata diciamo abbastanza bene. Facciamo, il Napoli ci ha abituato onestamente a questo campionato a fasi alterne, grandi partite, grandi prestazioni. Non dimentichiamo che c'è in ballo ancora tantissima roba per il Napoli, a cominciare da questa sera, e poi vediamo che succede, perché c'è ancora in ballo praticamente ci sono in ballo tutti e tre gli obiettivi stagionali, cioè la partecipazione alla Champions League, Europa League, la competizione, c'è in ballo di tutto, quindi questo potrebbe giustificare in qualche modo la sceneggiata napoletana. Sì, si poteva magari uno scenario un po' anche evitare, però in ogni caso si va avanti con questo balletto ormai da moltissimi mesi. Indubbiamente questo è inutile raccontarci le favole, infastidisce la squadra. No, indubbiamente è chiaro che crea nervosismo non sapere chi ti guiderà l'anno prossimo, e soprattutto giocatori sono uomini, hanno famiglie, e proprio in questi mesi, in queste settimane cercano almeno di programmare la loro vita, iscrizioni a scuole, come normale queste cose per banali, comuni mortali, sì. E quindi può sembrare assurdo parlare di queste cose, ma anche l'incertezza sull'allenatore, l'incertezza sulla destinazione certamente distrae, anche perché ci sono giocatori che magari con Benitez non rimarrebbero o al contrario con Benitez avrebbero la certezza di restare, ed è giusto togliergli questi grilli dalla testa in un momento cruciale della stagione. Quindi se alla fine scopriremo che sarà stata sceneggiata napoletana, non staremo a sorprenderci più di tanto. Dobbiamo chiudere, che mi guardi così, Giorgio De Luca? Dobbiamo vedere Napoli e la Fiorentina, naturalmente. Marco, grazie, alla prossima. Grazie a voi, a presto. Ciao Marco Berinazzo. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Daniele Bonamici in redazione. Domani dopo Gera delle 2 ci sentiamo, ciao.